Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto per una ennesima puntata di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile, con il nostro regista Eddie Daici e con Anna Zampieri. No, Anna Zampieri purtroppo non c'è, io sono Cristi e rimango da solo per questa puntata. Anna Zampieri, la nostra responsabile di ECR che ci guida da qualche mese appunto nella conduzione di questa trasmissione, è purtroppo assente perché è impegnata in un weekend, diciamo, comunitario all'interno della sua parrocchia di Spinea. Quindi salutiamola e auguriamola appunto che questa esperienza sia bella, positiva, e poi appunto quando ritornerà la prossima settimana ci racconterà cosa ha vissuto, cosa come è stata organizzata questa esperienza comunitaria animatori ACR e animatori ACG insieme. Trasmissione appunto dedicata al mondo degli oratori, che ha un'email: fuori di noi @libero.it, dove potete appunto inviarci domande, richieste particolari o raccontarci un'esperienza di oratorio, un'esperienza bella e significativa che avete vissuto all'interno della vostra parrocchia. Avete anche un numero di cellulare a vostra disposizione, 320-614-6964, per utilizzarlo appunto per mandare appunto delle richieste particolari, per fare delle domande particolari sul mondo degli oratori. Mondo degli oratori che si chiama, per quanto riguarda la diocesi di Treviso, Venezia e Padova, le tre principali diocesi che collaborano nella realizzazione di questo programma, che va sotto il nome di Noi Associazione. Noi Associazione che proprio nel 2012, cioè in quest'anno, festeggia i suoi primi 10 anni di vita. Noi Associazione che è presente in 14 regioni, in 43 province e opera nelle diocesi delle rispettive province, nelle diocesi delle rispettive regioni. Quindi una realtà che ha circa 1300 oratori sparsi in tutto il territorio nazionale e che ha circa 250-260.000 soci tesserati. Tesserati che sono tutte le persone che frequentano l'oratorio. Cosa vuol dire? Vuol dire bambini, vuol dire adulti, vuol dire anche anziani, cioè famiglie intere e diverse generazioni che si trovano e si ritrovano all'interno di questi ambienti per passare un momento di tempo libero, per in qualche maniera partecipare ad un incontro culturale o partecipare a un grande gioco. Quindi auguriamo a tutte queste realtà associative che festeggiano, proprio perché sono affiliate a Noi Associazione, 10 anni di vita, ogni bene, e quindi cerchiamo anche di raccontare quello che di bello fanno, le collaborazioni che instaurano con le amministrazioni comunali, provinciali e regionali, perché sono anche associazioni di promozione sociale, possono in questo periodo ricevere, e questo bisogna ripeterlo sempre, il 5 per 1000. Basta appunto inserire nella dichiarazione dei redditi personali il codice fiscale del circolo oratorio Noi e fare poi la firmetta. Non costa nulla ovviamente questa destinazione, ma è molto utile per il circolo e oratorio che ne beneficia, perché può utilizzare questi soldini per attività, programmi, progetti. Noi, come ogni settimana, abbiamo un ospite particolare che è un gruppo ACR, gruppo ACR che collabora con la trasmissione Fuori di Noi, che ci racconterà cosa fanno di bello all'ACR, perché vanno all'ACR, ci presenterà anche una scheda del proprio paese e scelgono all'interno di ogni puntata anche i brani musicali che vanno in onda. E anche questa settimana il gruppo, diciamo, ospite protagonista è quello di Carbonera. ACR di Carbonera è protagonista assoluto appunto di questa puntata e sceglie anche i brani musicali. Avremo poi, la scorsa settimana, se vi ricordate, abbiamo intervistato Don Dario Magro, cappellano di Marcon, della parrocchia di Marcon, ma anche animatore e anche una delle persone che fa parte di quella grande commissione che hanno realizzato il sussidio Grest 2012, che si chiama Stella. Ci siamo lasciati la scorsa settimana con delle domande in sospeso e quindi abbiamo pensato di continuare, di terminare l'intervista e di inserirla in questa puntata di Fuori di Noi. Il tema principale di questa seconda, diciamo, parte di intervista sarà il tema dell'animazione. Delle ricette non ce ne sono, però delle indicazioni utili Don Dario ce le ha date e le ascolteremo appunto fra poco. Tante altre informazioni potete, mi raccomando, trovarle e scovarle soprattutto nei siti rispettivi delle associazioni: www.noitreviso.it, Noi Padova, Noi Venezia. Questi siti stanno diventando, e lo sono già, dei portali. Cosa vuol dire? Siti dove si possono raccogliere informazioni, si possono scaricare dei documenti che possono essere utili per il vostro circolo, per l'oratorio e magari magari anche quindi per la comunità parrocchiale, ripeto ancora, per potenziare le già attività presenti in oratorio, ma anche per migliorare il servizio appunto di animazione, il servizio appunto anche di attività appunto che un oratorio può svolgere. Quindi guardate e state sempre, diciamo, fate sempre attenzione a questi siti che vengono continuamente aggiornati dalle rispettive segreterie. E adesso passiamo, dopo questa grande introduzione, al primo momento musicale scelto dagli amici di Carbonera, la CR di Carbonera, protagonista appunto di questa puntata. Loro ci hanno suggerito alcuni brani che vorrebbero appunto ascoltare in questa puntata e noi ovviamente li esaudiamo. Il primo brano musicale è di un gruppo che sta andando per la maggiore, italiano, i Modà, con Tappeto di Fragole. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Un po' ingiallita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra steso me ne sto. Primo brano musicale appunto scelto dal gruppo ACR di Carbonera, che già salutiamo ma che poi ascolteremo nella seconda parte della trasmissione Fuori di Noi, trasmissione appunto dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile. Come vi dicevo all'inizio, abbiamo la scorsa settimana cominciato ad intervistare Don Dario Magro e adesso noi continuiamo ad ascoltare sempre Don Dario, che ci parla sempre di Grest, perché è il momento di presentare la proposta di quest'anno, che ricordo ancora si chiama Stella ed è ispirato al libro di Esther, e parliamo anche però di animazione, che cos'è l'animatore. Quindi a te la parola, Don Dario. Don Dario, quando si parla di Grest si parla di animazione anche di bambini. Ci sono particolari attenzioni da osservare nella stesura della storia e del progetto? Sì, io di solito ho tre attenzioni particolari. La prima è quella del linguaggio, che deve essere immediato e puntando a inserire tanti dialoghi proprio per permettere di dare a dei personaggi un'identità e anche di aiutare anche la recitazione. Il secondo obiettivo è che il personaggio deve avere un carattere immediato, definito e che deve essere riconoscibile da parte dei ragazzi, e i ragazzi si devono riconoscere. E il terzo è proprio la solarità della storia, la giocosità delle situazioni che ci aiutano a ritrovarci dentro e anche che ci divertono, perché siamo dentro un Grest, è un'attività estiva che serve proprio per giocare. Continuiamo la nostra intervista con Don Dario. Allora, Don Dario, quando parliamo di animazione, nel senso più ampio del termine, noi parliamo anche di educazione, secondo te? Certo che si parla di educazione, perché l'animatore comunica sempre, da sempre, dei messaggi, per cui per me è importantissimo che l'animatore sia formato per dare dei messaggi positivi e allo stesso tempo che sia, che colui che riceve l'animazione riceva dei messaggi che siano validi, buoni, belli, capaci anche di essere positivi. Noi parliamo tante volte di valori da comunicare, ecco, l'animatore deve comunicare dei valori e deve vivere questi valori, per cui io ci tengo tantissimo al fatto che l'animatore deve essere formato, deve essere educato, perché diventa educatore, fa un passaggio molto importante da questo punto di vista. Bene, e mentre sentiamo appunto Don Dario, mentre appunto lo stavo intervistando, vi ricordo appunto tutte le promozioni, le convenzioni che noi associazione sta stipulando e ha già realizzato con dei parchi giochi interessanti per coloro appunto che stanno preparando la proposta estiva, cioè i Grest. Ricordo Mini Italia, Leolandia, centri estivi appunto Novità 2012, Mediterranea, l'avventura acquatica. Tutte queste cose le potete trovare nei siti rispettivi o telefonando in segreteria. Poi abbiamo la convenzione con i gonfiabili di Eurogiochi SRL e poi abbiamo anche il parco archeologico didattico dell'Ivelet. Proposte per Grest e centri estivi estate 2012. Divertirsi con l'archeologia, attività dedicate alle tribù più intraprendenti. Ripeto, non aggiungo altro perché tutte queste informazioni, tutti questi volantini sono già nelle segreterie territoriali. Ma continuiamo l'intervista. Bene, allora, Don Dario, dici un pochettino quali potrebbero essere i segreti, gli ingredienti, le caratteristiche che dovrebbe avere un buon animatore di oratorio e di Grest. Tu, Don Dario, hai frequentato tanti corsi, diciamo, per perfezionare anche il tuo tipo di animazione, ma ne hai tenuto a te tanti, quindi forse sei proprio la persona più indicata per rispondere a questa domanda. Guarda, io ogni volta che incontro degli animatori o che faccio dei corsi di animazione e che li vivo, ci sono alcune cose che per me sono dei capisaldi. La prima è la fede, fede come fiducia, fede nel Signore. Ogni volta si comincia con la preghiera, ma anche fiducia in quello che si fa, perché ci sono dei valori fondamentali e c'è un incontro con Gesù che è importante. Poi c'è il sorriso, che non è sempre facile in ogni situazione, soprattutto nella situazione dell'animazione, quando ci sono dei piccoli fallimenti. La fiducia nel tuo amico compagno che sta con te, e faccio tantissime attività sulla fiducia, l'entusiasmo, che è fondamentale, è importante. Il resto sono cose tecniche che si possono imparare, però se ci sono questi quattro elementi, veramente l'animatore è completo, si può continuamente educare e può crescere, però sono quattro elementi fondamentali. Bene, allora parliamo adesso, andiamo nel concreto. Tu sei sacerdote nella parrocchia di Marcon, accanto al parroco appunto Don Domenico, che salutiamo, ma come riesci tu concretamente nella quotidianità appunto di una pastorale parrocchiale a coinvolgere oggi i ragazzi nella fase adolescenziale, che è la fase un po' più critica e dove tanti oratori, tanti altri educatori fanno difficoltà appunto a recepire dei messaggi, ma io dico anche a incontrare questi ragazzi? Quindi qual è la difficoltà principale nell'incontrarli, ma soprattutto quali sono, diciamo, le conquiste che tu pensi di aver ottenuto e quali sono le strategie da dover appunto adottare per avvicinare questi ragazzi? Beh, intanto bisogna credere che questi ragazzi, anche se hanno un 5% di buono, quel 5% può essere valorizzato ed è importante, e a questo qua bisogna proprio crederci e bisogna viverlo. Ci sono alcuni elementi. La prima, parlo dei bambini e dei ragazzi adolescenti, serve tanta e tanta ancora pazienza, serve fede, il crederci che il Signore ci guida, e serve anche tanto tempo. Tutte cose che in molte occasioni dobbiamo avere anche a discapito di altre cose, di altri tempi, però se ci crediamo, se crediamo nel futuro di questi ragazzi, se crediamo che possono diventare dei cristiani adulti, purtroppo questi sono elementi fondamentali e importanti. Dico solo due parole: fiducia nei ragazzi e credere nei ragazzi, ma dico anche che la fiducia e il fatto di credere sono legati ovviamente anche ad una fede che è quella cristiana e che attraverso i Grest tutti gli animatori, se è un Grest parrocchiale, se è un Grest del Noi, se è il Grest Stella 2012, cercano di trasmettere ai nostri ragazzi, ai nostri partecipanti e quindi anche alle famiglie che decidono di portare il ragazzino al Grest parrocchiale piuttosto che in altre proposte estive. Ma noi continuiamo ad ascoltare Don Dario. Quest'anno è un anno speciale per noi associazione perché festeggia appunto i 10 anni, il suo compleanno. Tu ne hai visitati tanti oratori, ne hai uno appunto all'interno della tua parrocchia. Qual è l'augurio che ti senti di inviare a tutte queste belle realtà? Ecco, l'oratorio è un ponte tra la Chiesa e il mondo e deve continuare a lavorare così. Mi sembra che noi stia lavorando proprio verso questa strada, verso l'incontro con tutti quanti. Quindi l'augurio che faccio a noi associazione è di non aver paura di rischiare. L'associazione Noi deve continuare a vivere in maniera entusiasta la sua missione nel nostro territorio. Questo è l'augurio più importante, e che abbia sempre fiducia nel Signore. Don Dario, noi concludiamo sempre la nostra intervista con la domanda delle 100 pistole, cioè noi chiediamo sempre a tutti i nostri ospiti di descrivere l'oratorio con un oggetto. Allora, se dovessi descriverlo, quale oggetto sceglieresti e perché, Dario? L'oggetto principale è un bel ponte tra la Chiesa e il mondo, e la parrocchia o il paese, quello che è. Questo è proprio l'oggetto che mi viene in mente. E per me è importante perché creando tanti ponti riusciamo a unire tante persone. Poi c'era anche un altro oggetto che mi veniva in mente, lo aggiungo, è una chitarra, un oggetto strumentale, un oggetto, qualcosa che fa musica, perché con la musica si avvicinano a tante persone, quindi io ci credo a questa cosa. Bene, e grazie Don Dario. Don Dario allora ci invitava a, praticamente ricordava che l'oratorio può essere appunto una chitarra, perché la musica è uno strumento per unire. E allora, prima di passare al prossimo brano appunto musicale, volevo anche ricordare delle feste. Prima abbiamo parlato delle convenzioni, adesso parliamo delle feste. Festa diocesana animatori Grest, sabato 16 giugno, quest'anno è di sabato, dalle ore 19:30 presso l'Acqua Estate di Noale sono invitati tutti gli animatori della diocesi di Treviso, in cui appunto durante la serata ci saranno giochi, ci sarà ballo, divertimento, ma è un'occasione per ritrovarsi insieme, accomunati dalla passione per l'animazione del Grest. Festa diocesana del Grest 2012, quella diciamo rivolta ai bambini, a tutti i partecipanti, venerdì 6 luglio dalle ore 9:30, sempre nella Villa dei Reali a Dosson di Casier. Ci sarà presente ovviamente anche il nostro vescovo Monsignor Gianfranco Agostino Gardin. Ultimo appuntamento, quello triveneto, Grest raduno Noi Veneto, martedì 10 luglio a Caldiero, a Verona, presso il Parco Acquatico Terme di Giunone. Ma come diceva Don Dario, la musica lega, la musica appunto fa sentire tutti più felici, e quindi ascoltiamo il secondo brano musicale che l'ACR di Carbonera ci ha suggerito per questa puntata di Fuori di Noi. Ed è una canzone di un nostro grandissimo artista internazionale, italianissimo, è il nostro Sugar Fornaciari Zucchero, che ci canta Baila, e quindi bailiamo tutti. Let me see you dance, man. Come on. Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di tequila, boom boom. Yeah. Sei cosa, sexy thing. Sole, guarda come brilla. Abbiamo parlato di convenzioni, abbiamo parlato di feste, ma due proposte particolari. Estate Alpine con il Mission Day è rivolto a tutti i Grest e oratori, e i responsabili, diciamo l'ufficio da contattare è Ufficio Educazione Mondialità, via San Nicolò a Vaglio di Roncade, telefono 0422 70 74 86 oppure mandate un'email a educazionevaglio@pimemilano.com. E anche questa è un'esperienza da poter provocare, da poter suggerire a tutti, diciamo, i ragazzi del Grest. Seconda esperienza un po' particolare, Comunità Murialdo di Treviso, riferimento ad Adele 348-93-72013. Il periodo però è il mese di giugno, massimo di 90 ragazzi da suddividersi in tre sottogruppi, e si riferiranno proprio alla storia Stella sul sito del Grest 2012 per fare delle attività con un certo, ovviamente, significato, messaggio e con un certo stile. Mission Day, Comunità Murialdo di Treviso. Ma adesso è il momento di... In oratorio, si vola alto! E sono i nostri amici della CR di Carbonera che sono venuti negli studi di Blu Radio Veneto a raccontarci cosa di bello fanno la CR e soprattutto da dove vengono. Siamo del gruppo CR di Carbonera e siamo... Daniele, Davide, Ludovica, Alberto, Martina, Alberto P, Simone, Carolina, Giada. Nome del paese? Carbonera. Nome della parrocchia? Parrocchia di Santa Maria Assunta. Comune? Carbonera. Numero abitanti? Circa 5.000 abitanti. Numero delle famiglie? Circa 2.000 famiglie. Nome del parroco? Don Flavio Zecchin. Età del parroco? 53 anni. Data di nascita del parroco? 13 gennaio 1959. Tre gruppi in parrocchia? Scout, ACR, gruppo giovani, catechismo. ACR quando? Domenica mattina. ACR a che ora? Dalle 9 alle 12, inclusa la mensa. I tuoi educatori? Angela e Riccardo. ACR quanti siamo? 10 ragazzi, 2 delle medie, di seconda media e 3... e 8 di terza media. Nell'ultimo incontro abbiamo parlato di... L'ultima attività è stata quella di Tiberiade, che è cominciata con la messa. Subito dopo siamo saliti nelle aule parrocchiali e poi ci siamo divisi. Col nostro gruppo abbiamo dovuto mangiare delle arachidi con la buccia e con le mani legate dietro la schiena. Dopo abbiamo scritto su dei fogli i nostri desideri e i nostri bisogni. Con un foglio appeso dietro la schiena siamo andati in giro per la stanza a scrivere sui fogli degli altri le cose positive di quella persona. Alla fine abbiamo risposto alla domanda: cosa vuoi che io faccia per te? Tratta dal Vangelo, con il bisogno che credevamo più importante. Attività principali durante l'anno: festa del ciao, festa dell'adesione l'8 dicembre, festa della pace, festa di carnevale, convegno diocesano, quest'anno è il 13 maggio, gita ACR Carbonera, campi estivi. Numero degli aderenti dell'AC? Circa 70 aderenti a Carbonera. Mi piace la CR perché? Mi piace perché mi diverto a scherzare con i miei amici e gli animatori, imparando cose su Gesù e sulla Chiesa, a volte anche con giochi e uscite apparentemente esterni all'attività ma che diventano importanti. Quali scoperte ho fatto quest'anno nel cammino della CR? Ho scoperto che stare con loro è bellissimo e che quello che fai alla CR non è noioso come pensavo alcuni anni fa, perché non sapevo neanche cosa fosse. E anche se sai che è domenica e hai sonno, non ci pensi, ti svegli e ti prepari perché sai che vai alla CR e di certo non rimani là come un sasso, perché ci sono tutti che ti incoraggiano. Alla CR non impari qualcosa di specifico, impari qualcosa che può esserti utile anche nella vita. Impari a stare assieme, impari a essere felice e molte altre cose. Racconto un'attività che ti è rimasta impressa. Un'attività che mi è rimasta impressa è stata quella in cui abbiamo scritto le parole che hanno caratterizzato il nostro passato, il presente e il futuro. Quei cartelloni mi hanno aiutato a capire come sono cambiato e cosa vorrò veramente fare e essere in futuro. Dopo aver scritto i cartelloni, abbiamo letto e spiegato e condiviso ciò che avevamo scritto nel cartellone. Siamo gli Ario della parrocchia di Carbonera! Unitevi a noi! Allora, ok, uniamoci agli amici di Carbonera, salutiamoli tanto, li ringraziamo. ACR di Carbonera, andate sempre avanti, ogni migliore augurio per voi e grazie di aver partecipato a questa puntata di Fuori di Noi. Ringraziamo anche Don Dario che abbiamo sentito prima, la regia di Eddie Daici e soprattutto la nostra Anna Zampieri dell'Azione Cattolica dell'ACR della Diocesi Treviso. Non c'era appunto perché è impegnata, ma ci sarà sicuramente, riascolteremo la sua voce e la sua simpatia la settimana prossima. E allora sempre e solo su Blu Radio Veneto, ogni sabato alle ore 14, domenica alle 12.30, sulla frequenza di Blu Radio Veneto c'è un'ennesima puntata di Fuori di Noi e quindi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.